sempre come sto scendendo. Mi ha domandato Desi Vucci all'undicesima volta, da faccio una domanda e dopo abito a radio tra qua a capo. No, non hai bisogno di chiedere controlli. Vai alla grande, io ti ascolto spesso, vai benissimo. Nessuno di quelli che usa quella radio lì, ma non perché siano usciti da qua, ma escono tutte veramente bene. Guarda Massimiliano, ce l'ha già da un bel po', la usa pochissimo, e ti dico che anche quella è in perfetto stato, nuovissima, anche se forse quella che ho usato più di tutti, però va molto molto bene anche quella lì. Molto bene, sono contento anche per quella di Giulio, perché è veramente eccezionale, lo apprezzo moltissimo. Vuol dire che va veramente bene. Avanti, o Massimiliano, si sa niente di Gianni Gippone, no? Non sa mai saputo niente, si sta meglio. No, negativo, Cla, negativo, non ho saputo più nulla. Quindi non ti so dire niente, hai capito? Positivo è Caparrogio. Porca mia. Mi dispiace tantissimo, vabbè. Purtroppo chi va a cavallo è soggetto a cadere con tutti i lavori e c'è sempre il pericolo e cose. No, avanti Marco. Eccomi qua. Adesso è a metà regime, diciamo. Sì, metà regime, non è né troppo fredda né troppo calda. Stazionario 1-1, grazie. Eccolo qua. Grazie alla correttore, visto che l'antenna sta andando a puttane, nel vero senso della parola, ecco qua. Praticamente l'antenna prima andava bene, una volta tarata in primavera, no? Andata bene per l'estate, ovviamente senza pioggia. Come ha piovuto la prima volta sono aumentate le stazionarie, poi sono un po' scese, al secondo quattrone sono a 2, addirittura 2,5 centrobanda. Sembra una specie di corto, capito? È un pasticcio questa antenna. Quanta antenna è? Un'antenna Ringo mezz'onda della Lemma. Guarda, io ho imparato una cosa, Marco, ho cambiato tante antenne, mi sono deciso, perché in questi giorni stavo ascoltando senza entrare, quello le mancano 4 radiali, quello ne manca uno, devo cambiare l'antenna, quando è così uno fa una spesa, spende 100 euro, si mette una bella antenna, boom, basta. Io sono 8 anni che ho la Mantova, quando è che l'anno scorso abbiamo cambiato il cavo, c'avevo per 7 anni c'avevo l'RG58 di quelli da Dridisi, mai un filo di stazionario, mai. E abbiamo cambiato il cavo l'anno scorso con Claudio, te lo può confermare lui. Vabbè, quel cavo è una Camilla, non è un cavo da niente, costa anche una bella cifra, un buon cavo, ma se ne dà quello, quindi è difficile che ti dia problemi, anche se hai poca calata, però rende moltissimo, io ce l'ho, quando ho tolto il 213 che era completamente cotto al sole, e ho messo questo, sono venato perché meno QRM, vabbè, stazionario non ne ho mai avuto, nessuna radio, assolutamente, nessun tipo di antenna, neanche la Mantova, sia quando ho staccato il cavo, da quando l'ho piazzata, è sempre a 1-1, non ci sono problemi, però il cavo è molto importante, vabbè, io ti consiglio una cosa Marco, così proprio per, siccome ti stai usando un quarto d'onda con un cavo da 52 ohm mi pare che sia grosso, hai provato a mettere il cavo fine? Allora no Claudio, questa è mezz'onda, il cavo è l'RG213 e il cavo sottile, ma tu dici 58? Sì, 58 m. Secondo me ti crea meno problemi, perché con quel tipo di antenna lì il cavo grosso non è tutto giusto, mentre se si mette il cavo del 2058, che è un cavo per lavorare in bassa frequenza, quindi con antenne, un quarto d'onda, mezz'onda, eccetera, secondo me ti crea meno problemi. Secondo me invece non è vale proprio, proprio zero con l'antenna. La Ringo secondo me l'antenna non vale a niente. Poi ci vuole la brittella. Eh sì. Costa 38 euro, però la cosa che mi suona strana è che questa Ringo è talmente semplice che non può essere che non funzioni. Io non capisco perché le stazionali siano due al centro banda. Abbiamo anche isolata, abbiamo isolato i vari giunti, abbiamo isolato i capi della bobina, no? Abbiamo isolato il bocchetto nel PL, abbiamo isolato tutto. E non capisco perché sia salita di stazionario, guarda. È comodo, abituato è la stazione. Aspetta, Marco, fammi capire, ciao. Che cosa hai isolato? Allora, abbiamo messo l'autoagglomerante sulle giunzioni degli stili. Abbiamo messo l'autoagglomerante su... sopra, non sotto, è sopra dove si attacca la spirale ai supporti, sopra però, mica sotto, non siamo scemi fino a quel punto, però intorno al bocchettone del TL anche per evitare che entrasse acqua nel cavo e niente da fare. C'è una spirale praticamente sotto, dove poi c'è l'attacco del piede. Tu hai messo il vulcanizzante dove? Dove c'era l'attacco di impedenza? No, allora sui... hai visto che la molla si fissa su quei due supporti, dai, quelle due piattine che ci sono sopra e sotto. Non ti farò vedere perché ti ho un sacco di orecchie. Ah, io togli quel cazzo di vulcanizzante, è chiaro che fa da induttore, c'è sempre stazionarie. Ma stai scherzando? Boh, io non vi comprendo a voi questo. Allora, il vulcanizzante va messo nelle aggiunture delle antenne, mai, né il natrosolante, né il vulcanizzante, né il silicone, mai, dove ci sono gli anelli per attaccare l'adattatore di impedenza. Quell'adattatore di impedenza che tu regoli, sollevi e abbassi in base alla frequenza che ti serve l'antenna, a parte fare un isolatore stazionale. Tu c'hai un'induttanza in quel cazzo di isolatori, hai isolato l'induttore, glielo devi togliere. Cazzo, siete una cosa allucinante, siete una cosa allucinante, mi meravigli Marco tu, ma so con chi l'hai piazzata quell'antenna. No, scusa, come fai a isolare l'induttanza se il nastro, il metallo tocca con i supporti, il nastro è stato messo sopra per evitare che la pioggia faccia ossido tra la spirale e i supporti ovviamente. La vede l'isola come isolatore, lo vede come isolatore, non si mettono mai né natrosolante né silicone grosso, lì potete mettere appena appena, ma proprio un dippino nel dadino dove entra l'anello, appena appena di grasso di vasellina, ma mai mettere il nastro, lo vede cazzo, lo vede. Quell'antenna deve essere libera, non ci deve essere niente, perché quella che avevamo montato con Antonio noi, cioè quella che avevamo montato con Antonio Globe, era una bomba e aveva stazionario zero ed era libera, senso vuol dire libera, capito? Non capivo perché avevi stazionario. Quante quella che ho montato io a Mauro, agli punti, che è sopra un palo di 2 metri, che è praticamente vede il tetto, proprio come risonanza regiona zero, tanto è vero che non è che esce molto, molto alto, ok, quella è stazionaria zero, Mauro non ha mai usato acquadratore d'antenna, non ha mai usato niente, col 140, era sempre libera, l'ho piazzata io, regolata da me, libera, non deve avere neanche un pezzo di filo, un pezzo di natrosolante con l'antenna, capito? Ma non solo quell'antenna, tutte le antenne, anche la mantova, dove c'è la spirale, tu non è che puoi andare a mettere il natrosolante dove c'è l'anello di chiusura della spirale, assolutamente negativo, niente, non si mette niente, appena appena di grasso nella vasellina qualsiasi tipo di grasso, solo dove c'è il dadino col bullone, basta. Ma le antenne lo sono fatte per stare all'acqua, al vento, alla pioggia e queste cose qua. Ma infatti non capisco cosa cazzo devi isolare, cosa devi isolare? C'è un anello, Massimiliano, che chiude la spirale di accordo e preaccordo, che ti dà proprio, fa da induttore sulla verticale, cazzo, tu me lo chiudi, cioè me lo isoli. Ma che lo isoli? A cosa serve isolarlo? Non serve a niente. Ma io neanche PL ho mai isolato, non me ne affutti nulla, capito? Sì, naturalmente quando intendo isolato non voglio dire che ho isolato il contatto elettrico e va bene. Ho semplicemente ricoperto con l'auto, come si chiama, agglomerante, per evitare che la pioggia formi dell'ossido. E poi ricorda che io quell'antenna ce l'ho da 4 mesi sopra, no, 5 mesi. Io ho sempre avuto 1,1 a centrobanda, sempre 1,1, quindi non è quello che isola roba del genere. Come ha piovuto le stazionarie si sono alzate, quindi l'acqua ha fatto qualcosa che prima non c'era assolutamente. Ma l'antenna è piena d'acqua? Te lo dico io, non è l'antenna piena d'acqua, se lui l'ha vulcanizzata bene non è piena d'acqua, te lo dico io che è successo. Infatti hai detto bene l'acqua che entra dentro il vulcanizzante, dentro l'umido, e il contatto che tu c'hai con la spirale è già umido, quindi ti sta facendo l'induttore. Devi togliere l'antenna, come si bagna, si asciuga da sola, quando l'ossido lo forma sulle fascette non te ne affutti nulla, l'antenna funziona meglio, lasciala stare libera. Non si, io guarda, ho montato due direttive e ce li ho libere, sono isolati solo i raccordi praticamente dei radiali, no, anche se è pure la tema di contare che quindi acqua non entra, però quelli si isolano, anzi un par di palle, quelle che abbiamo montato con Marco, niente, fascetta libera senza essere isolata, PL libero, assolutamente libero, perché come si mangia si asciuga. Se invece tu la chiudi, tu pensi che l'acqua nel vulcanizzante o in qualsiasi tipo di nastro l'umidità non rimanga, peggio fa, capito? Poi non asciuga quando c'è il sole, quando non sta piovendo, mentre con l'antenna si bagna, si asciuga. Sarà, ma è vari giorni che al sole, possibile che non si sia abbassata questa, non si sia abbassata questa stazionaria, pare un po' strano. Comunque sia, io la ringo, l'ho già conosciuta sotto quell'aspetto, l'hanno detto tutti su tutti i forum che è una tema del cacchio, che è molto soggetta proprio alla pioggia, all'umidità. Io so già che quando questa antenna ne scenderà, perché speriamo che ne scenda, mi prendo la stessa che ha Pomponio, che ha 3 radiali e che ancora posso gestire. 4 radiali non la posso gestire, 3 radiali sì. Ma guarda che se ti compri la Mantova, uno, perché 4 radiali ne metti 3, non succede niente, non è che ti cambia il piano di massa, assolutamente, cioè molti sono fissati, cazzo me ne è caduto un radiale e l'antenna non funziona più, cosa si ritiene? Assolutamente negativo, il piano di massa l'antenna lo vede lo stesso, anche se manca un radiale, certo se mancano tutti allora è diverso, ma se ce ne sono 5 ce ne sono 4, o ce ne sono 4 e ce ne sono 3 non cambia niente. No, per me cambia, perché il vicino di casa, che è anche il padrone del terrazzo, ha messo l'antenna TV molto vicina al mio palo, praticamente attaccata al mio palo, quasi, con un palo un pochino alto. Se io metto 4 radiali, il radiale gli passa dritto di fronte all'antenna. Se io ne metto 3 invece, lui c'ha praticamente l'antenna libera, vede il ripetitore, capito? E non influisce niente. Aspettate che apro a mamma. Forse non mi sono spiegato. Mantova 5 c'ha 5 radiali, Mantova 1 ne ha 4, quindi metto gli 1 e diventano 3. Va bene, avanti Luca. Io se no cambia il palo e lo mette più alto e ha risolto il problema. Io l'antenna che ho montato a Mauro, già hai visto, lo vedo. Tra l'altro nello stesso palo di fianco con una staffa a palo fianco all'antenna VHF del ricevitore, cazzo non c'è un bicchiere di stazione. faccio vedere, non si discute, però quando monti l'antenna devi montarla come Dio comanda, nel senso che non devi fare accorgimenti che non le competono l'antenna. Che cazzo ti metti a isolare? Cos'è l'isolare? L'antenna deve essere libera. Puoi isolare l'innesto, il vulcanizzante, e poi le passi sopra, ben tirato il vulcanizzante, perché io la mappa la, quando l'ho smontata da via Pascoli a portarla qua, c'erano le fascette che le ho smontate col cacciavite, nuove. Quindi, perciò, un altro vulcanizzante buono, ben tirato, e poi una passata di natrosolante sopra per far sì che, che il vulcanizzante aderisca bene al tubo. E basta, sugli innesti dell'antenna, sul verticale, no, ti metti a isolare fascette, fascettine, cavi di bugnetta. Sarà, però quell'antenna è stata isolata esattamente come l'hanno isolata tutti gli altri sui vari forum, documentata con video, con foto e roba del genere. E comunque il motivo ci deve essere. Comunque io te l'ho detto, è un discorso che abbiamo fatto mille volte su mille canali. Quando quella si romperà, andrà male il tutto, so già cosa prendere. Prendo quella della Midland, la Energy 5 ottavi, alta 6,5, 3 radiali, è leggerissima e ha pochi radiali che mi permettono di non ostacolare la ricezione di quell'antenna TV a fianco a me, tutto lì. Non ho bisogno di tiranti né niente. Aspetta. Riprendo io, là, che vi lascio che è pronta la cena. Vi saluto cordialmente, se ci siete riprendo dopo, se no vi auguro buon fine settimana a tutti quelli che ci sono in ascolto. Va. Vi lascio, ciao Claudio, Marco, Luca, poi ho sentito un altro bip che voleva entrare, non so chi sia. Vi saluto a tutti, dai, buona cena, buon tutto e buon fine settimana. Io era Massimiliano, un abbraccio a tutti lì e ci sentiamo, io non lo so, perché guardo la partita, poi domani me la portare presto. Marco, una cosa solo, poi faccio entrare il bip e vado a cenare. Non ti affidare mai ai siti, alle cose che sono tutte stroncate, capito? Lo dico per esperienza vissuta, affidati a gente che ha più esperienza di te, che le antenne ne ha montato prima di te e che ha fatto mille cose, perché anch'io, guarda, non sono molto imparato. Quindi mi hanno insegnato tante cose ultimamente, io direttive non ne avevo mai montato, ho chiesto l'aiuto di un radioamatore esperto su Sassari che mi ha dato la mano, ha saputo fare le cose fatte bene, non ho avuto nessun problema, quindi non è che lo dico per vanto, ma di verticali ne ho piantato tantissime, di qualsiasi tipo, io personalmente ho sempre isolato lo stiro verticale, tutto il resto deve rimanere libero, perché se tu sai una cosa, la mantola quando te la vendono c'è un bicchierino di plastica che va innettato dentro il filo, no? Del PL e poi attaccato il PL e lui va a chiudere, quello fa la bicchiere, non si mette mai, quindi prendete un altro cazzo, perché cazzo te lo danno? Ci dovevano mettere nel culo, capito? In poche parole, quindi molte cose sono state fatte per troncate e molti siti dicono fesserie, va bene, perché l'antenna nasce per essere libera, non va mai isolata da nessuna parte, nulla, va isolato lo stilo centrale verticale dove ci sono gli innesti per far sì che quando corre l'acqua non entri dentro e non vada a finire giù nell'attacco il PL, finito, tutto il resto è noia. Ti saluto che è pronta la cena, è arrivata gente e quindi devo scappare. Ciao a tutti, QRT per me. Se tu hai la possibilità con l'antenna di abbassarla e togliere quella roba lì, tu vedrai che come ti fa dice la zio Claudio. Ok, ciao Massimiliano, ci sentiamo. Ascolta, io sì, appena posso, perché la chiave ce l'ha il proprietario. Potrei provare a levarli, ma e se li levo ed rimane tutto così, allora a cosa la possiamo dare là? Qual è il motivo di queste stazionarie? Ah, può darsi anche, Marco, che ci sia un 50-50, può darsi anche che l'ha fatto anche, stai fermo col PTT, Luca. Stai fermo, ti ho detto. Capo di bugnetta. dicendo, o può darsi che sia un 50, un 50-50, potete mandare avanti e non puoi andare avanti. La mania va bene di sempre. E stavo dicendo, adesso questo filo, può essere un 50-50, nel senso che con tutto il vento che ha fatto, fortissimo eccetera, si sia leggermente spostata anche la spiraletta di accordo della stazionaria, ma visto se tu hai la possibilità di abbassarla e ti organizzi, mi chiami e la vediamo assieme, capito? Perché io c'ho il misuratore direttamente dall'antenna, senza attaccare alla radio, si attacca direttamente il cavettino al piede dell'antenna e io ti dico se l'antenna è troppo alta o troppo bassa come regolazione. Cos'è un analizzatore d'antenna MFG? Esatto, però anziché essere MFG è un altro professionale. Ho capito, ma ripeto, io all'inizio ero contento dell'antenna, chissà che sia davvero l'acqua. In quel caso è risolvibile con una fesseria, basta portarci un taglierino, levarlo. Ricordati che non è vulcanizzante e quindi è più tenero a togliere, è solo agglomerante. Ok, va bene, dai, buona cena se stai andando. Ci sentiamo alle prossime, vediamo anche se riesco a entrare stanotte, se c'è qualcuno, se no niente da fare, dai. Vediamo chi c'è rimasto sul canale, avanti. Ciao, quello lì. Dai, concludo. Sì, ma comunque non ci sono problemi. Il problema sicuramente è quello. O si è spostato leggermente oppure va tolto quel vulcanizzante che è messo. Se poi non è neanche vulcanizzante, può darsi pure che sia passata acqua e che quindi sia andata a finire giù nell'attacco del PL, quindi sta lavorando leggermente in corto e quindi ti crea quei problemi lì. Quindi va completamente smontata, asciugata, e il vulcanizzante poi te lo metto io, quello che noi isoliamo i tubi in polietilene, che è largo quanto il palmo della mano e non credo proprio che ti entri assolutamente niente. Va bene, ciao Marco lì, dai, che vado che mi stanno già chiamando. Ciao a tutti, QRT per me, grazie per le due chiacchiere, avanti Torellino. Mario Roger, Torellino ti saluta, buona carica, dai, avanti Marco. Ok, va bene, di nuovo buona carica, vediamo chi c'è rimasto, Gianni, Luca, Bu, e io riprendete tutti insieme. Saluta Torellino, non lo senti? Cappa, aspetta che, no, avevo l'attenuatore inserito, avanti chi c'è sul 10? Buonasera Marco, 73, ben sentito qua, razione spacca tutto, coordinate ottava, cambio. Cappa, copiato, prima avevo abbassato un po' qualcosa. Sta arrivando Santiago 6 e mezzo a radio 5, ok. Come vado lì? Santiago 7 a radio 5 qua, questa. Ok, no, stavo chiamando se c'era rimasto qualcuno, vabbè Gianni immagino che sia a mangiare. Luca ci sei all'ascolto? Niente, se ne sono andati tutti, vabbè. Allora ce ne andiamo anche noi. Mario Roger, stazione spacca tutto, vi saluta, dai, fatevi buona casa, se in carica, se ci siete, ci sentiamo dopo, ciao. Cappa, ok, ci sentiamo alle prossime, ciao, buona carica.